Mi raccomando. Radio Default è una web radio libera che da più di un anno dà vita a esperienze di condivisione, solidarietà e libera espressione, rivendicando la propria creatività contro la mercificazione della cultura e fuori dalle logiche imposte dal mercato. Con l'esplosione del web, la musica in formato digitale, i portali di musica e i social network, la radio e nello specifico la web radio viene ad assumere nuovi e molteplici significati. Infatti il web è fondamentalmente controllo, ma è anche condivisione di contenuti, esperienze e idee che viaggiano a velocità elevata e senza frontiere. Una web radio libera, oltre ad essere emittente di controinformazione, può essere una barricata per il libero accesso alla comunicazione, capace di incidere sul reale e non solo nel virtuale. Anche per questo, supportare la musica indipendente e l'autoproduzione musicale, come libertà artistica, dedizione e attività creativa, rappresenta un momento fondamentale del percorso di Radio Default. Questo concerto vuole ribadire la totale solidarietà e complicità con il compagno e redattore di Radio Default, attaccato sabato 28 dicembre da un gruppetto fascista di composizione locale e capitolina, a seguito della partecipazione alla mobilitazione spontanea nel giorno dei funerali di Erich Priebke ad Albano, che ha impedito la costruzione di un mausoleo per il pellegrinaggio di nuovi fascisti e di nostalgici del ventennio, in un territorio come quello dei Castelli Romani, protagonisti nella Resistenza e nella lotta partigiana. Ripudiamo il razzismo, il fascismo e il nazismo. Siamo per l'autodeterminazione della donna e per il riconoscimento delle diversità, contro ogni forma di sessismo e omofobia. Ricordiamo la nostra assoluta vicinanza ai due compagni anarchici rinchiusi dal settembre scorso nell'alta sorveglianza di Alessandria e Ferrara, perché colpiti dalla repressione dell'attuale potere democratico che affina le sue tecniche di controllo e oppressione di ogni forma di dissenso.